Sì, pronto? Sì. Ah, ecco, sì, per quella cosa volevo dirti che non ci sono infatti problemi. Credo sia risolto. E comunque ci aggiorniamo senz'altro. Sì, ecco, per quanto poi riguarda la settimana prossima, possiamo benissimo sentirci, riaggiornarci e valutare questa cosa insieme di comune accordo. Senz'altro. Va bene, allora ci aggiorniamo. Ciao papà.